fossi yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi volevo farvi iniziare la settimana in maniera lieta, in maniera divertente, e dedicando il tempo a quelle fessure impalpabili che si dischiudono nell'orizzonte grigio del quotidiano professionale di ognuno di noi, che si chiamano amori sul luogo di lavoro o anche amori di scrivania, visto che la scrivania è il luogo in cui gli amori crescono, maturano, si alimentano di amorosi palpiti, e spesso è anche il luogo in cui si consumano. Devo dire che questa mattina la tentazione era grande. Questo argomento sarebbe stato soppiantato se non mi avesse fermato Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, che già aveva lavorato sui nostri contributi audio. L'argomento che mi solleticava era la dichiarazione del lunedì del professor Francesco Alberoni: è l'amore, non il sesso, a farci impazzire di gelosia. Una dotta dissertazione che definisce il fatto che in realtà quando ci si presenta al nostro partner e dice: ma sai, mi piace un'altra persona, noi impazziamo in gelosia. Se lui ci dice: guarda, ho passato una notte di fuoco facendomi sbattere dalla testa dei piedi alla punta dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, ma è soltanto sesso, non c'è nessun trasporto, invece facciamo un sospiro di sollievo. Beh, mettiamo insieme queste due cose, lasciamo perdere la gelosia, vediamo quanto riusciamo a scindere i sensi amorosi dai sensi della concupiscenza nel luogo di lavoro, quanto il luogo di lavoro è clandestino e galeotto luogo in cui le lunghe, tediose, interminabili giornate o di lavoro, di fatica o di fannullonaggine, a seconda di quale sia il luogo in cui vi esplicate voi professionalmente, sia anche luogo di grandi tentazioni. Non esistono in proposito statistiche certe, ma diciamo che qualcuno, qualche dato, è riuscito a metterlo assieme. Lo sappiamo tutti e le ricerche lo confermano. Negli uffici privati o pubblici fioriscono la maggior parte delle relazioni extraconiugali o si formano coppie fisse. I dati, difficilmente verificabili, dicono che queste relazioni coinvolgono il 40% dei lavoratori. Certo è che con i colleghi si condivide gran parte della giornata. Il tempo con cui si sta a contatto con i compagni di lavoro è persino superiore a quello passato in famiglia. Ovvio che si possa creare una certa complicità fino a trasformarsi in una relazione. Quanto sia possibile poi inanellare tutta una fantastica narrativa sugli esiti a volte sconsiderati e anche fortemente perigliosi degli amori d'ufficio, lo dimostra un filone nutritissimo di leggende metropolitane proprio dedicate a una sorta di quasi tentativo di terrorizzare coloro che incappassero mai in questa frequentissima occasione. Una delle più frequenti leggende metropolitane la vedo riproposta dal TG.com proprio un paio di giorni fa, che a sua volta riprende la Gazzetta dell'Adda. È la nota leggenda metropolitana degli amanti focosi attaccati. Qui in particolare si riferisce di una guardia giurata e di una cassiera, entrambi sposati. In una pausa di lavoro si sono dati il consueto appuntamento nella toilette del supermercato, in cui che avevano trasformato in occasionale e forse non molto romantica alcova. Questa volta le cose non sono andate come sono andate in precedente e sono rimasti attaccati. Quindi hanno dovuto chiamare il 118, che li ha portati coperti con un lenzuolo al pronto soccorso. Nel frattempo il marito di lei con i bambini era venuto a prenderle, naturalmente ha visto l'orrenda scena dell'indissolubile trenino, è successo un casino. Non vi preoccupate, non c'è di nulla di vero in questo, può essere che nella notte dei tempi qualcosa di simile sia accaduto, ma in altre epoche, in epoche in cui probabilmente non esistevano né uffici, né guardie giurate, né cassiere, ma ogni tanto qualcuno piace indulgere del trasformare in realtà quella che è soltanto realtà leggendaria. Ma invece qual è la realtà? 800 24 00 24, confessate voi che siete in ufficio, voi che lavorate, voi avete accanto il respiro affocato del collega o della collega, la primavera è nell'aria, quindi amori di scrivania. Quali sono i metodi di approccio sul luogo di lavoro? I più diffusi sono: utilizzare la scusa mouse per sfiorarsi, il 23%, lasciare un messaggio affettuoso sullo screensaver dei computer, 18%. Scrivere parole carine sul post-it appiccicato all'agenda personale del collega, 17%. Mandare un'email affettuosa, 19%. Scannerizzare la propria immagine lasciandola per caso sul computer della collega corteggiata, 12%. Ma restano sempre validi anche i metodi tradizionali, come per esempio uscire per l'aperitivo, 12%, o tirar tardi in ufficio, 9%. Su, diciamo la verità, ci siamo caduti tutti in qualche fase della nostra esistenza, giovanile, senescente, di mezza età, momenti di depressione, momenti di disagio, momenti di solitudine, momenti in cui ci si sente incompresi. E poi necessariamente, dicevano i contadini dalle mie parti, mai mettere insieme il fuoco e la legna. Se il fuoco si mette vicino alla legna, incendia la legna. Normalmente in un momento in cui la promiscuità fra colleghi è così stretta, si ripete giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, in cui ognuno porta il fardello delle proprie inquietudini e delle proprie insoddisfazioni, in cui c'è un luogo che ci accoglie, un luogo in fondo discreto, un luogo complice, un luogo che è abituato a questo tipo di trasgressione. Avete sentito? Basta avere qualche piccola cautela, ma è normale. È normale anche seguire una sorta di corteggiamento d'ufficio che nasce dal privilegio di consumare assieme la pausa caffè, la pausa cappuccino, la pausa mensa, contiguità di vassoio, contiguità di carrello di vassoi sporchi, contiguità di passeggiata nel cortile, contiguità di confidenza su quello che è stato il motivo di dolore della sera prima o del pomeriggio prima. Ci si sconfronta le foto, ci si scambia le foto dei figli, scambiano le impressioni, si comincia a lavorare accanto, ci si sfiora, ci si comincia a guardare negli occhi, e poi iniziano le protesi elettroniche che sembrano fatte apposta per indurre in tentazione. Si ha sempre un computer in ufficio, si ha un telefonino, si è pieni di protesi emozionali. Molte volte esistono delle distanze invalicabili che vanno ben oltre ai pochi metri che ci separano da una scrivania all'altra, da un ufficio all'altro, da un saparè all'altro. Come riempire queste distanze incolmabili? Semplicemente mandando un SMS o collegandosi al messenger aziendale. Molte volte è possibile vedere interrotte le telefonate, quando si chiama in un ufficio, dal beep del messenger che avverte che un messaggio è arrivato. E si comincia con i motteggi d'ufficio, con le piccole facezze, con le piccole seduzioni, con avanzare lentamente cercando di carpire il girone dell'intimità. Quando si comincia a parlare delle mutande, il gioco è fatto. Come vi dimostra un classico del corteggiamento e dell'esito di un corteggiamento in ufficio, che è Bridget Jones. Decisi di riprendere in mano la mia vita e cominciare un diario in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones. Decisione numero uno. Trovare un ragazzo dolce e carino con cui uscire, evitando di provare attrazione romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti: alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimentali o pervertiti. E soprattutto non fantasticare su una particolare persona che incarna tutti questi aspetti. Sfortunatamente si dà il caso che la persona sia proprio il mio capo, Daniel Cleaver. Il diario di Bridget Jones uscì prima a puntate su due rubriche fisse su giornali inglesi, l'Independent e il Daily Telegraph. È diventato poi un famoso bestseller, è stato fatto un film, poi è venuto un secondo libro. È la storia di questa ragazza, perfettamente la norma, né bella né brutta, carina, anche piacente se vogliamo, anche se non perfettamente è nello standard della fatalona. Ma in ufficio, di solito la fatalona d'ufficio o il bello d'ufficio fanno parte di una categoria a parte, di solito si accoppiano tra di loro. Rappresentano una sorta di deità nella gerarchia estetica aziendale, quindi sono fuori gioco. Sono le persone medie, sono coloro che ritrovano il frisson di essere desiderati, di essere concupiti e di piacere soltanto in quell'ambiente isolato dal mondo, come se fosse una gabbia atemporale, quella dell'ufficio, quella del luogo di lavoro. Beh, inizia questa cara ragazza con tutti i migliori propositi, sapendo benissimo che poi in realtà la sua tentazione più profonda, la sua concupiscenza, il suo cedimento carnale sarà proprio per l'esempio di tutte le abiezioni. Quando una donna, ma anche un uomo, fa l'elenco delle qualità negative di un essere del sesso opposto da cui deve guardarsi, come noi uomini diciamo, ma guarda quella, è una che si mette in mostra, è una che si vede dalla faccia, che ci prova con tutti gli uomini, immaginiamo che attrezzatura avrà sotto la gonna, teniamocene lontani, ma in realtà è proprio quella che andiamo a cercare. La stessa cosa vale per le signore quando individuano lo scavezzacollo, il corsaro, il pirata, il cinico, colui che le farà soffrire, beh, proprio lì vanno a cadere. Da Daniel Cleaver. Problema serio. Sembra che tu abbia dimenticato la gonna. La gonna è a casa in malattia? Messaggio per il signor Cleaver. Indignata per il messaggio. È dimostrabile che la gonna non era né malata né assente. Indignata per sfacciato atteggiamento della direzione sulle dimensioni della gonna. Suggerisco che la direzione è malata, non la gonna. Aspetta, aspetta. Avete visto che in fondo quello che vi dicevo in realtà fa parte anche di questa trama romanzesca, ma probabilmente attinge da fonti di esperienza reale. Quando si comincia a descrivere reciprocamente i propri accessori di vestiario e incomincia a entrare in gioco la malizia, le parole si fanno pesanti, appiccicose, insinuanti, si comincia a conquistare verbalmente, anzi graficamente, dei brandelli di intimità, sapendo che l'intimità verbale, che la condivisione onirica di alcune allucinazioni legate alla corporeità, alla fisicità, naturalmente apre il grimaldello per il posto dell'intimità fisica. Se passare davanti all'ufficio era un tentativo per dimostrare la presenza della gonna, posso dire che è fallito miseramente. Cleaver. Silenzio, prego. Sono molto impegnata e richiesta. P.S. Come osa molestarmi sessualmente in questa maniera oscena? Messaggio per Jones. Spiacente aver causato offesa. Eviterò ogni tono eccessivo e sarò politicamente corretto in futuro. Profonde scuse. P.S. Mi piacciono le tue tette sotto la camicetta. Psst, Brenda. Bel nome. Senti, che fai stasera? Veramente ho un impegno. Ah, certo. Beh, peccato. Pensavo che sarebbe stata un'opera di bene portare a cena la tua gonna per farla crescere un po'. Forse potevi venire anche tu. Che ne dici di domani? No, domani c'è la presentazione. È interessante quanto poi il percorso seduttivo, la condivisione dello scopo ultimo, del finale di quella storia che entrambi sanno già che percorreranno insieme, si svolge su un luogo metaforico, la lunghezza della gonna, l'accessorio. Sarà sempre un punto su cui soffermare il dibattito, la dialettica amorosa. È un po' come negli antichi contrasti amorosi, si parlava di rose, si parlava di fiori, si parlava di profumi, di oggetti meravigliosi della natura. Oggi chiusi in un ufficio, circondati da simulacri sintetici delle realtà naturali, ci fermiamo a parlare di gonne, di taglio di cappellini, taglio di capelli, di scarpe, di accessori, di calze e anche di altre cose. Naturalmente dall'invito a cena con il collega d'ufficio, ormai l'ultimo baluardo prima del cedimento finale, che naturalmente anche per Bridget Jones avverrà. È stato bellissimo. Oh, Daniel, sì. Che facciamo in ufficio? Tu credi che gli altri lo noteranno? Noteranno cosa? Noi, che lavoriamo insieme, che andiamo a letto insieme. Aspetta un minuto, Jones. Rallenta un attimo, è cominciata martedì, adesso è giovedì. Non è esattamente un rapporto importante e duraturo, no? Evviva! Non sono più una povera zitella, ma una fidanzata perfetta con un genio del sesso serio e per bene. Innamorata al punto da portarmi via per una mini fuga romantica durante il weekend. Promettimi solo che non staremo seduti in barchetta a leggerci poesie zuccherose. Ha perfino accettato di accompagnarmi. 800 24 00 24. Vi mando questa storia non perché io pretenda di colmare alcune vostre lacune, ma semplicemente perché vorrei che contrapponeste alcuni luoghi comuni orrendamente perpetrati in questa storia con quella che è un'esperienza concreta. Qui già vedete che naturalmente la ragazza è colei che subito si innamora, tende a fraintendere, a non capire quali sono le regole del gioco in questi casi, soprattutto quando si va con il capo, quando si va con una persona che sembra conoscere il fatto suo, che non sbaglia una mossa, che ti prende per mano e ti indirizza lungo la via della perdizione, non sbagliando un passo, non sbagliando un incrocio, ti porta direttamente dalla tastiera al tastierino d'accesso dalla stanza d'albergo. Quindi naturalmente uno non è che deve farsi grandi illusioni, ma è già innamorata, lei già pensa che lui l'abbia scelta, abbia passato con lei un weekend per profondo amore, ma questo weekend sarà molto corto, molto breve. E soprattutto non considerava Bridget Jones la meravigliosa metafora che vi faccio, vi suggerisco e vi regalo, che è quella del telecomando. Un uomo in questa occasione, la maggior parte delle volte, vorrebbe che la compagna che è accanto avesse la stessa reazione che ha un televisore quando si pigia il pulsante rosso del telecomando e si spegne. Conclusa e chiusa la fessura della meravigliosa storia di passione, d'amore, di trasgressione, di fuga dalle reciproche identità, vorrebbe spegnere con il telecomando e ritornare alla sua vita quotidiana o, come in questo caso, ai suoi usi quotidiani. Senti, sono veramente mortificato, sarei dovuto No, io sono mortificato. No, mi dispiace, ma ho potuto sbrigare un sacco di cose, come puoi vedere. Sì. Dammi soltanto un'altra ora, ok? D'accordo. C'è qualcuno qui? No, che io sappia. Lei è Lara, della filiale di New York. Lara, lei è Bridget. Piacere. Avevi detto che era magra. Naturalmente, lui aveva tutte le caratteristiche dell'amatore seriale da ufficio che gioca il suo fascino, il suo potere, che deve mettere il sigillo su tutte le sue dipendenti, per quello fa parte del suo bisogno di sentirsi maschio, uomo potente, autoritario, autorevole e via dicendo. Fa l'improvvisata casa dove lui sta sbrigando l'inderogabile mole di lavoro e trova una sua collega di una filiale di un'altra città nuda in bagno che si copre con un incartamento d'ufficio e capisce di essere stato soltanto una delle tante. 800240024, quanto assomiglia la vostra esperienza di amanti d'ufficio questa storia che vi abbiamo fatto ascoltare, o quanto se ne discosta? Ma io pregherei anche le signore di far sentire la loro voce, credo soltanto uomini nel monitor delle telefonate che ho in linea. Marco da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Riguardo alle leggende metropolitane, delle volte diventano realtà, come è successo all'interno del tribunale di Fraso, dove due avvocati sono stati trovati attaccati, ma davvero. Ma lei ce l'ha visti proprio? Lavoro mio al 118, ma gliel'ha raccontato un suo cugino, come lo sa? No, sui giornali. Vabbè, i giornali non è che sono la verità assoluta, ho diverse conoscenze in tribunale, allora gli dico, e me l'hanno raccontato, ma ho fatto nome e cognome, per cui c'è anche nome e cognome. Ma nome e cognome, anch'io potrei dire Intonti e Corleoni, ma che non dice nulla, bisogna ci siano delle. Lo sa perché io dico questo? Che io, mentre aspettavo di mandare in onda la sua telefonata, ho digitato su Google amanti attaccati, leggenda metropolitana, mi arrivano centinaia di occorrenze. Certo. O esiste una sindrome così sviluppata, l'attaccamento amoroso? Ma è una cosa che può accadere in medicina. Sì, ma certo, tutto ma è chiaro che può accadere. Oddio, che accada sempre degli amanti in luogo di consumazione precario e ci sta sempre poi questo accesso. Ma io guardi all'interno delle mura di casa e viene il tuo medico, non chiaramente non va a scriverlo sul giornale. Sì. Se succede in un luogo pubblico interviene il centro. Va bene, le pare che voglia mettere in crisi la sua fede nella leggenda metropolitana degli amanti attaccati? Non ci guadagno niente io. No, ma lei mi ha riferito un altro delle centinaia di articoli giornali che negli ultimi 20 anni parlano degli amanti attaccati. Ma potrei raccontargli quella di Batman che si tuffa sul letto e si spacca la schiena e rimane bloccato sul letto con la moglie legata? Potrei raccontargli dei coccodrilli nelle fogne, la pioggia dei serpenti? Sono tutte storie che puntualmente escono sulla stampa e si avvalorano proprio del fatto che ogni tanto qualcuno le riprenda. Ma i giornalisti spesso hanno poca memoria o hanno molta fretta di riempire le pagine dei giornali e uscire proprio magari a consumare amori di scrivania. Grazie. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. No, non le faccio confidenze, guardi, io dico. No, ma lei può sempre far finta che racconta una storia di un'altra persona e raccontarmi la sua. Volevo, lei non può mancare questa travolgente categoria sociologica, che è quella della gnocca relativa, che è elaborata in un libro di un creativo milanese che si chiama Lele Panzeri. Lui dice che dato ogni sistema sociale, una scuola, un ufficio, un ospedale, c'è la gnocca relativa, cioè la più desiderata. La gnocca assoluta è quella, è la donna bellissima che nessuno di noi mortali in realtà approccia mai. Beh, io qualcosa del genere ho detto nella mia ignoranza in materia. L'assoluta, e poi magari troviamo qualche signora che ci dica il relativo cotè maschile, se no sembra un discorso fra omacci di osteria. Però io capisco, esiste sempre la rappresentante o il rappresentante della categoria estetica più eccelsa, ma di solito non è mai accessibile alla massa dei colleghi, non so se mi spiego. Il criterio assoluto è irraggiungibile, il criterio relativo è proprio giusto, non so se corrisponde al suo maestro di vita Lele Panteri, quello che penso anch'io. Ognuno di noi improvvisamente si sente apprezzato per qualità anche estetiche, anche fisiche, anche seduttive, che normalmente nella sua esistenza quotidiana non trova mai modo di avere così gratificate. Questo secondo me deriva dall'isolazionismo dell'ambiente d'ufficio. È un po' come accade nelle carceri, che a un certo punto uno si innamora anche di un buco sul muro, di un'immagine onirica o del compagno, della compagna di cella. Quando mai avrebbe pensato una cosa del genere? Perché rimanere lungo tempo isolati e deprivati comunque dello scambio con altri esseri umani ci fa sognare. Lei trova che questo possa accadere anche in un ufficio? Sì, sì, senz'altro, ma c'è di più. A un certo momento è come se ci fosse uno scambio, cioè gli orizzonti delle attese diventano quelli lì e quindi la scena diventa quella. Allora lui dice, tristi ragionieri con tre figli si rovinano correre dietro ad una donna così che all'apparenza normale, ma perché in quella scena è stata la star assoluta. Beh, la star assoluta è la loro vita, si sentono meno tristi e meno ragionieri. Non voglio criminalizzare la categoria dei ragionieri, dico anche tristi giornalisti, tristi medici, infermieri, geometri, qualsiasi categoria che accade, a cui accade di rimanere in isolamento coatto ma necessario, perché il professionale a un certo punto si accende una stella nel loro firmamento del grigiore quotidiano, quella stella magari a sua volta è una triste impiegata, una triste avvocata, o perlomeno nella sua percezione personale della tristezza, due tristezze si incontrano e esplode un cortocircuito per cui accade e scoppia l'amore di Scrivania. Melog 2.0. Eccoci qua, 800 24 00 24. Parliamo oggi di amore di Scrivania. Ho chiesto appassionatamente un contributo femminile, visto che non me ne arrivavano, visto che giustamente le signore, le signorine se ne stanno. È cascato il microfono, ma capiate che a volte si fanno gesti inconsulti quando si parla di questi argomenti che toccano nel fondo e scuotono la coscienza anche al più imperterrito dei conduttori. Avevo chiesto un supporto femminile, finalmente mi arriva nell'esperienza di Maria. Maria, buongiorno. Buongiorno. Lei si discosta un po' da quanto ho appena detto. Io mi discosto perché la mia storia è una bella storia, nel senso che è vero, io sono una persona adulta, ho 60 anni, quando ne avevo 28, in ufficio mi sono innamorata di una persona e sono stata io per un anno a corteggiarlo, perché ero convinta che fosse la persona adatta e che saremmo potuti essere felici insieme. E così è stato. Dopo un anno alla fine lui ha ceduto alle mie insistenze e siamo stati 11 anni insieme. Ed è stata una bellissima storia. Ma eravate amanti o eravate... No, abbiamo proprio convissuto poi. Ma quindi non era una storia clandestina? Un fidanzamento in ufficio, ecco, una cosa... Non proprio, perché le nostre posizioni erano distanti, diciamo, lui aveva 24 anni più di me. Però dopo le avete avvicinate le posizioni? Dopo, cosa? Vi siete avvicinati poi, anche se stavate distanti agli inizi? No, nel senso che la cosa in ufficio non è mai diventata ufficiale, perché poi lui ha lasciato l'ufficio. Ma non c'era nulla da nascondere comunque? No, non c'era nulla. Quindi una bella storia d'amore, non è diciamo esattamente il segmento che stiamo analizzando, che sono le storie clandestine, quelle parallele, quelle di chi già ha comunque situazioni sentimentali, matrimoniali, di fidanzamento, di coppia, via dicendo, che usa l'ufficio come anche ricreazione dello spirito e dei sensi, oltre che luogo di lavoro. Certo, ma in questa mia storia c'è questo, perché in realtà lui all'epoca aveva una separazione in corso, ma viveva ancora con la moglie. Quindi era un po' sposato, ecco. Ecco, era un po' sposato. Poi alla fine diciamo che si è liberato totalmente. E lei era libera? Per questo, io sì. Quindi diciamo lei ha preso al volo una situazione che si stava già ormai sfilacciando. Non lo sapevo a quell'epoca. Io avrei vissuto anche come amante. Non mi interessava, diciamo, diventare la sua compagna, come di fatto poi lo sono diventata. Ero solamente profondamente innamorata e convinta che fosse la persona. Ma questa è una storia d'amore comunque. è una delle tante possibili esiti, forse uno dei più rari, ma accade comunque, delle storie d'ufficio. Ma cerchiamo di dare anche delle indicazioni pratiche, concrete, perché sappiamo che non sempre vanno così, non sempre sono storie d'amore imperiture, molte volte sono delle situazioni che vanno a sovrapporsi, vanno a frastagliare situazioni già frastagliate, non soltanto matrimoniali o sentimentali, ma anche professionali. Diciamo la verità, quando si stabilisce una storia tra due colleghi se ne accorgono tutti e cominciano anche i dolori, perché non sempre una coppia che professionalmente dovrebbe lavorare in tandem riesce a farlo con la stessa leggerezza quando li unisce qualcosa di più di un rapporto professionale. Le relazioni che si instaurano sul luogo di lavoro sono di quattro tipi. Primo caso, affinità mentale. Il collega diventa il miglior confidente, un amico speciale, ma la relazione non ha risvolti fisici. Secondo caso, innamoramento. Ci si innamora di un collega che occupa il nostro stesso posto nella gerarchia e si costruisce una relazione duratura. Terzo caso, relazione prettamente sessuale, nascosta ed extraconiugale. Un buon metodo per tamponare le lacune della vita matrimoniale. Quarto caso, relazione sessuale tra capo e collaboratori. Qui si gioca molto sulla seduzione e sul capriccio dei due protagonisti. In realtà si vuole passare del tempo, si spera di fare carriera facendosi raccomandare dal proprio corpo. Avete visto, c'è una tipologia abbastanza semplice da definire. Il caso della signora è il secondo caso, l'innamoramento. Ci si innamora di un collega che occupa il nostro stesso posto e si costruisce una relazione duratura. Non è detto che non debba sempre accadere questo. Luca, buongiorno. Buongiorno Nicole. A lei sarebbe piaciuto, ma non l'ha mai fatto. Beh, diciamo che un paio di volte nell'ultimo anno avrei avuto l'occasione. E chiaramente, sinceramente, sarebbe stato solo a scopo sessuale. Sì, vabbè, mica. Però, avendo visto più di una volta il famoso film Attrazione Fatale, ripensando alle conseguenze possibili, ho rinnegato, diciamo. Ma pensi che quel film è stato fatto apposta per mettere il terrore agli americani di lasciarsi andare in relazioni extraconiugali? C'è questa storia terrificante di questa amante all'inizio dolcissima, sì, appassionata, si trasforma in una pericolosissima assassina. Esistono, esatto, casi simili, non è detto che non esistano, però tenga conto che il film è stato fatto come deterrente, come la leggenda metropolitana agli amanti attaccati. Sono cose che esistono nella società, la società ha gli anticorpi rispetto alle nostre debolezze carnali e quindi ci ammaestra, come una volta si faceva vedere ai crocicchi l'inferno con le fiamme, con i dannati dentro, oggi c'è la leggenda metropolitana. Certo. E quindi per questo motivo diciamo ho preferito evitare la possibilità che succedesse una cosa e quindi distruggere alla fin fine la famiglia, ecco, tutto qui. Beh, c'è anche chi ci riesce senza distruggere nulla, ma non voglio essere io tentatore. Ecco, come ha fatto a fermarsi al punto giusto? Ha detto alla sua tentatrice, guarda, temo che tu ti trasformi in una pericolosa assassina col coltello che non muori mai anche se ti affogo nella vasca? No, semplicemente ho ignorato i successivi messaggi di tendenza, diciamo, non so, mi è stato offerto di uscire, ma ci vediamo per l'aperitivo, ho evitato di farmi trovare all'appuntamento e probabilmente in questo modo, capendo l'antifona, diciamo, ha desistito dal... Beh, guardi, o l'ha presa per un vigliaccone o per un grande figo che se ne può permettere chissà quante. Spero per lei che sia la seconda. Beh, diciamo che operando come, tra virgolette, colletto bianco, potrei permettermi. Ma, ripeto, la paura è... Vabbè, lei è del partito degli astensionisti e dei paurosi, ma è giusto ci siano anche loro, grazie a Dio lasciano più spazio agli altri. Andiamo avanti nelle nostre massime di saggezza, perché la nostra sia anche una trasmissione di servizio. Tre buoni consigli per gli amanti d'ufficio. Anche se esci solo occasionalmente con qualcuno dell'ufficio, non parlarne a nessuno. Prima di tutto potresti suscitare le invidie di qualche spasimante frustrato e poi saresti controllato, controllata in ogni tuo movimento. Una fotocopia un po' più lunga del normale susciterebbe infiniti pettegolezzi. Se intrecci una storia d'amore in un ufficio con una persona sposata, questo vuol dire due cose. A. Non ami le cose troppo facili. B. Il tuo posto di lavoro è seriamente a rischio. Le voci in ufficio infatti corrono abbastanza in fretta e purtroppo, specialmente se sei donna, corri il rischio di essere marchiata di infamia e costretta a vivere in un ambiente non troppo simpatico. Se sei single e ti innamori di un single, problemi ce ne sono di meno, ma preferisci comunque la via della discrezione, almeno finché non ufficializzerai l'unione o la troncherai. Ovviamente ti auguriamo la prima strada. Certo, bisogna mettere in conto anche il rischio della pubblicità dell'amore di scrivania. Si sa la gente invidiosa, si sa che molte volte chi gestisce personale, chi gestisce risorse umane, naturalmente preferisce che queste si dedichino al lavoro e agli obiettivi comuni piuttosto che all'intrattenimento e al compiacimento delle proprie lacune sentimentali. Carla, buongiorno. Buongiorno, io ho due esperienze significative di amore d'ufficio, una delle quali mi ha portato a vivere attualmente col mio compagno, nonché padre dei miei tre figli, quindi diciamo le storie possono essere anche più semplici. Tutte brave ragazze telefonano a questa radio, sono proprio contento, guarda. Però la prima storia era un po' più trasgressiva, diciamo, quindi anche più divertente. Me la racconti, almeno ci tiriamo un po' su. Nata attraverso, infatti l'altra diciamo c'ha meno di piccante. No, buon per lei, ma alla fine sì. Certo. Anch'io mi sono fidanzato, sposato e sto da 20 anni con una mia ex collega di redazione, ma... È normale, la gente, chiaro, si conosce in età da marito negli ambienti di lavoro. Esatto, anche perché diventa purtroppo con le ore di lavoro che si lavorano uno dei principali luoghi. Senta, è molto piccante la sua storia, spero. No. Beh, dica di sì. Vabbè, sì, è divertente. Allora diciamo, aspetti, fermatevi tutti, mandiamo le informazioni del traffico, così rimanete in ascolto. Tra un minuto la signora racconterà la sua piccantissima storia di amore di scrivania. 800 24 0024. Mi viene da ridere perché adesso sono scatenate le telefonate, tutti hanno improvvisamente deciso di vuotare il sacco, di vuotare il cassetto, anzi di vuotare la propria cassaforte e raccontare gli amori di scrivania, ma vi ho lasciato con il desiderio di ascoltare la lussuriosa e lubrica storia di amore di scrivania di Carla, che adesso ce la espone. Carla, ancora in linea? Ma adesso mi metti in imbarazzo con questa definizione esagerata, spropositata. Comunque, beh, lo faccio apposta. Ci provo a metterci, aggiungerci un po' di fantasia. La storia è nata intorno alla condivisione di una scrivania e di un computer e quindi diciamo ad una vicinanza forzata notevole, non solo fisica ma anche poi degli spazi di lavoro e di tutto quello che c'è. C'è una tastiera in due? Praticamente, alternata naturalmente e nel frattempo mentre uno stava alla tastiera l'altro tastava. Esatto, no, pochi millimetri sulla scrivania a lavorare in assenza di computer. Ma di sedie almeno ne avevate due? Di sedie almeno ne avevamo due, non sempre però, diciamo che... E lei dove si sedeva quando la sedia era una? Però ecco, no, adesso insomma... Accanto, diciamo, condividevamo una larga sedia in alcune circostanze. Cioè, un ufficio che dà una sedia a due piazze e un'unica tastiera, sembra fatto apposta, era un setting psicoanalitico per recupero di anaffettività, penso. Comunque, vada avanti. Comunque, niente, quindi la storia è nata così, si è sviluppata, diciamo, clandestinamente, ma era un segreto di Pulcinella e forse è stata, diciamo, la nostra sfrontatezza. Ma stava la nostra a guardarvi mentre lavoravate, scusate. Come dice? No, bastava guardarvi lavorare in due su una sedia, su una tastiera. Cioè, o eravate gemelli siamesi o eravate amanti, è chiaro. Non era colpa nostra, diciamo che noi eravamo obbligati dalle circostanze a lavorare in quella maniera, per cui tutti, diciamo, volendo, avevamo una scusa pronta, anzi eravamo vittime di quella situazione. E potevamo accusare l'ufficio di non fornirci sufficienti postazioni. E avete sofferto per questo vittimismo? No, per niente, però appunto poi alla fine è stato divertente perché sarà stata un po' la nostra incoscienza, la nostra strafottenza, ma insomma era un po' un segreto di Pulcinella, ma ce lo siamo vissuti con molta leggerezza e devo dire che anche quando è finita, cioè poi tutto sommato poco dopo, non insomma siamo riusciti a continuare a lavorare senza che questo si trasformasse in un dramma, per cui ecco la potrebbe... Ma non mandi SMS mentre parla con me, non devi rassicurare nessuno. No. Ah, sento dei rumori di tastiera. Quando vi siete lasciati, vi hanno almeno dato due sedie, due scrivanie e due tastiere, considerando che elaborare un trauma? Quando ci siamo lasciati, per fortuna, nel frattempo abbiamo anche cambiato abbiamo anche cambiato, diciamo, postazioni e uffici, ci siamo separati, ma è stato un caso, devo dire che è stata tutta una storia di casi molto fortunati, perché finché lavoravamo insieme la storia era frizzantissima, nel momento in cui la storia si è conclusa, piano piano la nostra vicinanza forzata, diciamo l'esigenza di star così vicini è venuta meno, e quindi insomma è stata... Quindi mi confermi, anche voi signori avete ogni tanto bisogno di pigiare il tasto del telecomando e far scomparire accanto quello che è stato l'oggetto della passione. Assolutamente, ecco, questo è molto mi carino quando lui scompare con il sorriso sulle labbra e poi si rimane amici per anni come attualmente. Sì, questo è vero, è carino. Grazie. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Lei ha storie meno carine di amori, sì, di scrivania. La mia è la storia alla rovescia di chi lo subisce. Diciamo. Vabbè, lo raccontiamo, ognuno di noi ha questo fardello. Chi riesce a saperlo, chi non lo sa mai è più fortunato. Vediamo cos'è successo. Niente, a gennaio avevo una bellissima moglie che voleva un altro figlio, a febbraio mi ha detto che non era più innamorato, dovevamo separarsi. Faccio un controllino sui tabulati telefonici di una mia scheda e verifico che lei chiama continuamente una persona, è solo un collega di lavoro, è solo motivazione di lavoro, era il suo capo. Notte, io esco e vado al lavoro, lei chiama, quindi alla fine si scopre tutto. E la cosa bella, abbiamo una bimba di 21 mesi, lei decide di disfare la famiglia per mettersi assieme ad uno che aveva una relazione e aveva già rotto un'altra famiglia e che stava assieme ad un'altra persona e lei era una terza, ma lei lo sapeva. E questo è il suo capo di lavoro, lei è una dipendente, sa tutto e io dico, certe volte le donne dico sono proprio stupide. E come è andata a finire? E sta proseguendo la cosa. Beh, le donne sono stupide, ma anche gli uomini si accollano una madre con un figlio di pochi mesi e un marito. Non è che facendola innamorare, portandola via di casa, non mi sembra una grande acchiappata. Comunque, sa, ognuno... Non è che le persone sono stupide. Esistono delle circostanze in cui nessuno è più padrone di se stesso. Il film Attrazione Fatale spiega e mette paura a coloro che si lasciano andare in maniera troppo dissoluta e troppo superficiale, ma è altrettanto vero che in realtà ognuno potrebbe cadere in queste cose qua. Non pensi che tutti ne siamo immuni. Non ce l'abbia troppa. Non se la prenda troppo con sua moglie. Se vuole un consiglio, vada avanti, pensi alla sua vita, non se ne faccia un problema. Sicuramente. Lei pensi che lei è fortunato che almeno l'ha scoperto, è stata leale con lei uscendo di casa? No, lei lo nega sempre, lo sta negando tuttora. Come lo nega? Non vive con questa persona? No, non vive con questa persona, vive ancora a casa mia a spese mie e continua a dire io vivo e mi faccio mantenere così. Questo è il discorso, vabbè. Dovrebbe uscire di casa, invece chiaramente noi uomini siamo sempre in torto anche quando abbiamo ragione e quando siamo cornificati dobbiamo pagare e mantenere le nostre signore a vita natural durante, perché anche con l'addebito, qualora la cara ex moglie dovesse trovarsi in difficoltà, dobbiamo mantenerla. Caro, le leggi purtroppo non tengono conto delle nostre cedevoli nature fino in fondo, ma cosa devo dirle? Le auguro la maggior fortuna possibile per liberarsi di questo fardello sulla coscienza, dico, e veda un po' come può metterla, non so proprio darle consigli. Grazie Andrina. Andrina, buongiorno. Pronto, buongiorno. Andrina. Buongiorno. Ci tiri su perché siamo veramente affranti per questa storia così dolorosa. È vero, anch'io ne vedo molte perché faccio l'avvocato, di queste storie purtroppo ne vedo parecchie. Ma anche sotto la toga dell'avvocato palpita un cuore di femmina, quindi? Sì, almeno in alcune circostanze sì, e soprattutto quando ero più giovane. Quindi? Quindi anche a me è successo quando ero praticante in uno studio legale che il mio capo si è innamorato di me e mi ha bombardato con una corte davvero spietata. Era un grande avvocato, un principe del foro. Un principe del foro, che ma anche molto romantico, molto umano, e quindi io che ero giovane, inesperta, che poi vivevo questo transfer con una persona più grande di me e soprattutto che aveva realizzato quelle che erano le mie anche aspirazioni lavorative, lui era già quello che io avrei dovuto essere. Però sai, fa parte della marpionaggine insita in ogni grande professionista arrivato di giocare sì, questa carta. È un po' di dottore infermiera, no? È un po' lo stesso. Però guardi, è compensatorio. L'uomo sa che ha pochissime cartucce da spararsi quando arriva all'apice della carriera. Se le spara giocando sulla credibilità, sul fascino, il fatto di essere professionalmente arrivato, ma sa perfettamente lì dietro l'angolo che un giovane avvocato praticante arriverà e gli porterà via tutto, amanti, ufficio, clienti, praticanti, via dicendo. Quindi lo consideri come un regalo che ha fatto a un uomo che ormai aveva già un piede nella fossa, immagino. O sbaglio? È svenuta anche l'avvocatessa, sono stato troppo duro con lei. Luca, buongiorno. Buongiorno. Allora, io la mia è soltanto una testimonianza. Io ho attualmente in corso una storia con la mia collega e sono 5 anni che questa storia va avanti. E non teme di essere riconosciuto dicendolo per radio? No. Vabbè. No, perché mia moglie è parzialmente... Sono 20 anni che sono sposato, anzi, questo mese faccio 20 anni di matrimonio. Sua moglie è parzialmente consapevole? Parzialmente consapevole e diciamo che se ne è fatta una ragione per un semplice motivo, che mia moglie è molto dipendente da me, quindi... Io le auguro di continuare a galleggiare in questa certezza. Io invece non vorrei più galleggiare in questa incertezza, per il semplice motivo che io sono innamorato della mia collega come la mia collega è innamorata di me, e vorrei risolvere definitivamente questa cosa qui. Nel momento in cui sto cercando di risolverla, mi rendo conto che mia moglie non può fare a meno di me, non saprebbe dove andare, non saprebbe che pesci pigliare. Parto dal presupposto che abbiamo anche 2 figli, quindi di conseguenza, quindi questo altruismo in mezzo, questo altruismo comunque la porta a tenersi moglie amante. Sì, il problema è che alla mia amante fino a... gli va bene, ma gli va bene soltanto in parte. Perché anche lei è sposata, penso. No, lei no. Ah, è single. Ah, terribile categoria delle single acchiappamariti altrui. Beh, lei si è separata abbastanza recentemente. Quindi di conseguenza sono 5 anni che lavoriamo insieme. Ci siamo, diciamo che tutto quanto è nato per un discorso esclusivamente di sesso. Dopodiché invece le cose si sono evolute come si sono evolute, cioè con un discorso di innamoramento reciproco. Ma la sua partner, e poi chiudiamo, anche se ho il monitor pieno di telefonate che voglio continuare a parlare di questo argomento, ma vedremo di riprenderlo, non le dice mai la sua amante: ma quando ti decidi anche tu a fare quello che ho fatto io? No, tutti i giorni. Vabbè, lei si è messo, guardi, nella più intricata è più fastidiosa delle situazioni. Le auguro di uscirne in una maniera o nell'altra, anche se onestamente non è affatto facile. Beh, abbiamo concluso, avete anche sentito il mio telefono che avevo lasciato acceso, questa era proprio una mattina di quelle. Ah no, abbiamo ancora un minuto, perfetto, abbiamo un minuto, allora sentiamo Federica. Federica ha avuto una storia da 8 anni con un collega, bisogna stare attenti a non farsi beccare. Dia i consigli per non farsi beccare, visto che abbiamo parlato soltanto d'amore, parliamo di una storia fatta soltanto su il soddisfacimento dei sensi. Perfetto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono Federica e sono riuscita ad avere una storia con un collega per tanti anni, però in ufficio non ci si guardava, non siamo mai andati a prendere un aperitivo, non abbiamo mai fatto una cena insieme, nulla. Nessuno si è mai accorto di niente, però appunto questo volevo dire, potevo dare un consiglio forse. Ma come avete fatto ad approcciarvi? Vi siete mandati dei bigliettini? Si lavorava insieme, per cui un po' di sguardi, un po' di così, di come diceva lei, di... E ma come vi coordinavate poi per la consumazione? Un piccolo messaggio, io non ho mai disturbato la sua famiglia con messaggi o con richieste varie. Io mi sono sempre accontentata, direi che era, per me era già tanto, e il fatto che poi io non volessi più avere relazioni perché venivo da 2 storie molto difficili, per cui questa cosa mi andava molto bene, mi dava molta serenità e assolutamente non mi creava problemi. Vabbè, lei è un esempio in conclusione di professionalità nell'amore di scrivania, che in fondo è il coronamento giusto di tante storie travagliate, dolorose, nascoste, ipocritamente represse, e quindi siamo soddisfatti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22.